soy una vida viva, cantas a Tatiramati, dove sono tutti uguali e sono tutti importanti. Voglio una vita senza tempo, da volare la mattina, dove il valore del denaro è solo una formalità. Voglio una casa un po' normale, per vivere in tranquillità, senza amministratori che mi dicono cosa non fa. Voglio un cane e una donna, per vivere in allegria, e birra gratis ad ogni ora, sia al bar che in birreria. Go! Ok, andiamo avanti con calma, sempre più macerie, ma si vede che stiamo invecchiando.